GR24, il sole 24 ore. Terremoto elettorale napoletano, ci sono motivi di riflessione per tutti. Il PDL e la Lega incassano la sconfitta a Genova. I grillini preparano la festa in piazza. Casini, moderati sotto le macerie. Benzina, il governo chiede ai petrolieri di intervenire abbassando il prezzo di almeno 4-5 centesimi. Genova per gli inquirenti, l'agguato al dirigente Ansaldo preparato nei minimi dettagli. Giro d'Italia, oggi giornata di riposo, la maglia rosa Finney, ferito a un piede, è stato respinto all'ospedale di Verona. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione GR24, dunque ben ritrovati. Motivi di riflessione per tutti, sono queste le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano oggi a commento dei risultati delle elezioni amministrative, il primo turno. Ma partiamo ancora dai risultati, Napolitano lo sentiremo tra poco, partiamo dai risultati, punti fermi e ballottaggi. Verona alla Lega con la riconferma del sindaco uscente Tosi. Al centro-sinistra vanno La Spezia, Pistoia e Brindisi. Il centro-destra si impone invece a Lecce e Gorizia. Sono queste le sfide già concluse al primo turno nei capoluoghi chiamati a rinnovare le loro amministrazioni comunali. Spoglio bloccato invece a Catanzaro, dove sono stati contestati i voti in tre seggi. A fare chiarezza sarà ora l'ufficio centrale elettorale del Tribunale. Per gli altri 19 comuni capoluoghi interessati dal voto bisognerà invece aspettare il secondo turno fra due settimane. A Genova in vantaggio il candidato del centrosinistra Doria, che il 20 e 21 maggio se la vedrà con quello del terzo polo Musso. Centrosinistra in vantaggio con Bernazzoli anche a Parma, dove a sorpresa a contendergli la poltrona di sindaco sarà Pizzarotti del Movimento 5 Stelle. A Palermo invece la sfida sarà fra Orlando, Italia dei Valori, e Ferrandelli, sostenuto da PD e SEL. Bisognerà aspettare i ballottaggi anche per conoscere i nomi dei nuovi primi cittadini di Monza, Cuneo, Piacenza, L'Aquila, Frosinone, Isernia, Rieti, Lucca, Asti, Alessandria, Como, Trani, Belluno e Taranto. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E ora, come dicevamo, le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano, e allora diamo il buongiorno anche a Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. La riflessione è dunque del Presidente della Repubblica Napolitano su precisa domanda sul risultato di Grillo, definito da molti osservatori un vero boom elettorale. Il capo dello Stato risponde: di boom ricordo solo quello degli anni 60 in Italia, altri boom non ne vedo. Dalle elezioni, prosegue Napolitano, escono motivi di riflessione per le forze politiche e per i cittadini sul rapporto con la politica e sui problemi di governabilità oggi a livello locale. Una volta si diceva, prosegue nel ragionamento il Presidente della Repubblica, che le elezioni amministrative avevano un rilievo essenzialmente locale. Questo poi era vero fino a un certo punto. Comunque, aggiunge Napolitano, riferito sempre ai risultati delle elezioni di ieri, si è trattato di un test piuttosto circoscritto e anche il numero degli elettori chiamati a votare non è stato grandissimo. Ciò non toglie, secondo il Presidente, che vi siano motivi di riflessione per tutti, a partire dalla governabilità che, come abbiamo visto in Europa, si pone a livello nazionale anche in diversi paesi. Chiaro il riferimento alla situazione della Grecia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E nonostante le parole di Napolitano, che come avete sentito smorza i toni sul presunto boom del risultato elettorale del Movimento 5 Stelle, i dati parlano chiaramente di un'affermazione positiva del partito di cui Beppe Grillo è l'ispiratore. Allora facciamo il punto in questo campo con Raffaella Calandra. E anch'io come presidente ricordo solo Pertini. Pochi secondi dopo che le parole del capo dello Stato sono rimbalzate sulla rete dai festeggiamenti per il successo, i grillini su Twitter passano agli attacchi al Quirinale. Non vedrebbe il boom di Grillo neanche sotto tortura, cinguettano qua e là, mentre lui, il comico genovese, davanti al PC inveisce contro la televisione zombie, dice, non idonea, scrive, a fare politica. Nella sua città il Movimento a 5 Stelle sfiora il ballottaggio, alla fine lo manca, ma col 13,9% il candidato Paolo Putti esulta e prepara una festa gialla per domani in piazza Ferrari De Ferrari, e a sua volta si prepara ad essere corteggiato dagli sfidanti. Scandali e commissariamenti spalancano le porte ai grillini, ancor di più in Emilia Romagna, che da culla del movimento col V-Day del 2007 diventa ora la terra dell'affermazione, col traguardo di 3 ballottaggi su 4. Conta soprattutto il quasi 20% di Federico Pizzarotti a Parma, attraversata dagli scandali, dalle tangenti e dalle pentole. E anche se loro c'erano sotto il portico del grano nei giorni della protesta, ora Pizzarotti evita il binomio col clangore dei coperchi. Sentiamolo. Sicuramente sì, ma ha spianato la strada anche agli altri, non solo a noi, perché altrimenti veniamo sempre inevitabilmente affiancati a quello che è la protesta. Noi siamo soprattutto proposta. Se voi guardate il nostro programma, non dice dei no, ma dice soprattutto dei sì, con una visione diversa da quello che portano i programmi degli altri partiti. In vista del ballottaggio confida nel supporto diretto di Grillo per la volata finale, anche se dice di non avere un suo cellulare, proprio come Roberto Castiglione, primo sindaco del movimento a Sarego, provincia di Vicenza e soprattutto sede del fantomatico Parlamento Padano. È una nuova avventura e l'entusiasmo è molto alto, anche per dar dimostrazione che insomma il nostro movimento vuole costruire una nuova politica assieme ai cittadini. La definizione partito non è più un tabù per noi, ma siamo gli stessi del V-Day, commenta invece uno dei primi militanti grillini, Andrea De Franceschi, ora consigliere regionale in Emilia-Romagna. Sentiamolo. Sicuramente l'Emilia-Romagna ha probabilmente una mentalità più aperta nei confronti anche delle novità e forse laddove c'è stata anche una situazione di benessere e di buon governo che ormai è belle che dimenticato, la reazione dei cittadini nei confronti di chi prima aveva amministrato bene o comunque decentemente poi li ha così traditi ha determinato uno spostamento verso chi propone davvero un buon governo nell'interesse dei cittadini. Ed è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Adesso vediamo invece i commenti delle comunali nelle altre partiti politici. Cominciamo dal Terzo Polo e dal PDL con Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, il PDL alle prese con il post voto dopo il risultato molto negativo delle comunali. Il segretario Angelino Alfano promette però di presentare oggi pomeriggio i dati definitivi che, secondo Alfano, testimoniano come il partito dell'ex premier sia fortemente radicato nel territorio. Ma al di là della facciata, la leadership di Alfano scricchiola. Per Gianni Alemanno le comunali sono state un referendum contro l'IMU e il sindaco di Roma chiede ad Alfano di convocare subito ad autunno un congresso nazionale. Per Guido Crosetto e Margherita Boni sarebbe proprio stupido mettere adesso in discussione la leadership di Alfano. Per Altero Matteoli il PDL paga più di tutti l'appoggio a Monti, si voterà nel 2013, ma più Berlusconi si defila, questa è la tesi di Matteoli, più il partito perde. E sulla proposta di Alfano di evitare da ora in poi i vertici di maggioranza, quelli denominati ABC, risponde il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, basta ai vertici, ma posso vivere senza, dice Casini, e che comunque non è contento del risultato del voto, siamo cresciuti ma i voti del PDL e della Lega non li abbiamo presi noi, i moderati sono in un cumulo di macere, accusa Casini, bisogna andare molto oltre il Terzo Polo. E per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito, adesso veniamo in casa del Partito Democratico che, anche se non viene sottolineato, forse anche per il risultato l'exploit dei grillini, è comunque tra i vincitori di questa tornata elettorale sicuramente. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è alto l'umore nel PD, anche se il partito non sfonda, un nettissimo rafforzamento accompagnato da uno tsunami nel centrodestra, un'avanzata del Movimento 5 Stelle, questa in sintesi. Analisi del segretario del PD Bersani sui risultati delle amministrative. Il leader democratico non ci sta con chi dice che hanno perso tutti, noi siamo più forti, sostiene. Gli elettori hanno capito il nostro sostegno al governo, dice ancora Bersani, e ci danno ragioni per rafforzarlo. Quanto a Grillo, il suo risultato non ci preoccupa, dice Bersani, perché noi abbiamo tenuto e lui ha preso voti soprattutto dalla Lega e dal PDL. Infine un messaggio al governo, dobbiamo rinegoziare il patto con il premier, ora ci deve ascoltare. Ascoltare di più, se lo avesse fatto il bilancio oggi sarebbe migliore. Da Roma è tutto. Grazie anche a te Alessandra. E adesso ci occupiamo anche del calo della Lega, che è un altro dei punti fermi di questa tornata elettorale. Il Carroccio sconfitto a Monza, dove non arriva il ballottaggio, fuori dai giochi anche a Cassano Magnago, il paese di Umberto Bossi. Voti in netto calo anche a Crema, Cantù, Como e Lissone. Così Attilio Fontana, il sindaco di Varese, intervenuto oggi a 24 Mattino. In queste elezioni è finito un certo modo di fare politica, secondo il mio modo di vedere le cose. è finito lo schematismo dei partiti, la contrapposizione fine a se stessa. Lo sto dicendo da tanto tempo, è inutile che ci troviamo a discutere se abbiamo perso per colpa della Lega, per colpa del PDL, per colpa del centro-sinistra. Sono cose superate ormai, non possiamo più fare la fine dei capponi di Renzo. Se continuiamo a cercare di strapparci due preferenze facendo la battuta a defetto o dicendo la cattiveria che più attrae l'attenzione, non abbiamo capito niente, perché il mondo sta andando in un'altra direzione. E ora chiudiamo questa lunga pagina dedicata ai risultati delle comunali. Più avanti parleremo invece, daremo uno sguardo all'Europa con i contraccolpi in Francia e Grecia delle elezioni. Con la cronaca ci spostiamo a Genova, dove gli inquirenti indagano sull'agguato di ieri al dirigente dell'Ansaldo. Vediamo se ci sono delle novità con Andrea Ferro. Buongiorno, ben ritrovato. Sì, buongiorno Alessio. La rivendicazione è tarda ad arrivare, ma era già successo con gli omicidi di D'Antona nel 99 e di Biagi nel 2002. Per questo motivo i detective dell'antiterrorismo aspettano ancora e nell'attesa impalcano le indagini su un identikit che viene elaborato dai RIS sulla base della testimonianza dello stesso Adinolfi. Corrisponde ad un uomo alto circa 1,85 m, cappelli scuri, un taglio di occhi particolari. Contemporaneamente sullo scooter ritrovato alcune ore dopo l'agguato si cercano impronte, finora vanamente quasi certo che i due attentatori abbiano usato guanti. D'altronde l'agguato era stato preparato nei minimi dettagli, per esempio questo scooter era stato rubato il 12 febbraio alle spalle della città in un comune dell'entroterra, altra circostanza che rafforza la pista dell'eversione. Un aggiornamento dall'ospedale San Martino sulle condizioni di Roberto Adinolfi, ha trascorso una buona notte, non ci sono complicazioni per quanto riguarda la ferita alla gamba e dicono i medici già dai prossimi giorni potrebbe tornare a casa. E per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie anche ad Andrea Ferro da Genova. Dunque adesso facciamo una pausa per il traffico, torneremo tra poco, andremo in Francia e in Grecia per i risultati, le conseguenze dei risultati elettorali, poi parleremo del prezzo della benzina con il governo che oggi ha incontrato i petrolieri e ha detto di attendersi al più presto una diminuzione del costo dei carburanti. A tra poco. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato delle conseguenze dei risultati delle elezioni comunali. Napolitano ha detto ci sono motivi di riflessione per tutti. Il PDL e la Lega incassano la sconfitta. A Genova i grillini preparano invece una festa in piazza per domani. Casini dice i moderati sono finiti sotto le macerie. E poi a Genova, dove gli inquirenti indagano sull'agguato al dirigente Ansaldo, che sarebbe stato preparato nei minimi dettagli. Adesso le altre notizie. Cominciamo subito andando in Europa, dove proprio in questi giorni, domani, ci sarà una importante festa, la festa dell'Europa, in un momento nel quale si parla molto, Gigi Donelli è qua in studio con me, d'Europa, però in termini legati alla crisi, quindi in termini non positivi. Però se ne parla male, se ne parla male, diciamolo, ma questo in fondo è un po' il paradosso di questo momento storico. Non si è mai parlato così male dell'Europa e forse non ci accorgiamo che non facciamo che parlare d'Europa e ci rivolgiamo anche al termine dell'elezione all'Europa per avere delle risposte. Da questo punto di vista io penso, come dire, oso pensare che Schuman e i padri fondatori dell'Europa sarebbero molto contenti in queste ore, perché quell'idea che nacque appunto, domani si celebra in fondo un accordo che vale la pena ricordare, metteva insieme la produzione del carbone e dell'acciaio, che sembra una cosa priva di senso, ma che serviva a impedire che Germania e Francia lo utilizzassero per farsi una guerra ancora una volta. Bene, da quello siamo arrivati a questo, cioè a un voto in Francia e in Grecia che immediatamente ha un riflesso europeo. Riflesso, 23 maggio, dunque tra pochi giorni, vertice straordinario su crescita. Questo vuol dire che di fatto ormai le elezioni nei paesi europei hanno una proiezione immediata sulle aspettative del consesso europeo. Barroso dice vogliamo i project bond fine giugno, sostanzialmente non fa che rilanciare questa richiesta di crescita economica che evidentemente ormai monta da tutti gli angoli del continente. Ecco, Da questo punto di vista direi che sarà una festa dell'Europa, sicuramente in un contesto difficile, ma quanto mai vissuta. Vorrei segnalare a questo proposito che nei prossimi 4 mesi, da domani per 4 mesi, la Commissione si impegna in quello che è un vero e proprio referendum, una richiesta di partecipazione da parte dei cittadini europei e che vengono invitati a partecipare attraverso il web a descrivere l'Europa che vorremmo. Noi l'avremo un portale di fatto attraverso il sito di radio24.it, 4 mesi per parlare male forse dell'Europa, per dire ciò che non va e come la vorremmo, e direi anche per ribadire che dell'Europa c'è sempre più bisogno. Grazie. Allora Gigi Donelli, questa dunque la cornice europea. Adesso veniamo ad alcune notizie di oggi. A Parigi, prima di tutto, inedita cerimonia stamane all'Arco di Trionfo, dove per la prima volta due presidenti hanno reso omaggio al milite ignoto nella ricorrenza francese dell'8 maggio, armistizio del 1945. Su invito del presidente ancora in carica Sarkozy, infatti il neo eletto François Hollande era presente per questo omaggio. Tra i due una stretta di mano in vista del passaggio di consegne ufficiale che avverrà il 15 maggio. E ora in Grecia, difficile gestione del dopovoto. Il conservatore Samaras, infatti leader del partito di maggioranza relativa Nea Democrazia, ha rinunciato a formare un governo dopo i no incassati in queste ore. Oggi l'incarico sarà affidato al leader della sinistra Tsipras. Nelle sue consultazioni, ha riferito ieri un parlamentare del partito, non vedrà la compagine filonazista entrata al Parlamento con il 7% dei voti. Un programma, quello della sinistra, in 3 punti, formazione di un governo di sinistra, rifiuto del memorandum di aiuti e un piano invece per la ricostruzione del paese. E adesso una intervista dal nostro inviato ad Atene, Dario Ricci, a Panagitos Pantelis, responsabile di Ecofam, Centro Europeo di Analisi Economica e Fiscale, di fatto il più noto fiscalista greco, quello che cura i rapporti con l'Unione Europea proprio sui temi fiscali. Sentiamo. Il tasso dell'evasione in Grecia negli ultimi decenni è stato elevatissimo perché non è stato nessun controllo da parte dello Stato come eliminare l'evasione fiscale. Quello che uno deve dire, per vederlo anche con il risultato elettorale, è che se nel 2009 6 su 10 erano evasori fiscali, oggi, 2 anni e 2 anni e mezzo dopo, 7 su 10 sono evasori fiscali. Ecco, ma com'è possibile? Perché com'è possibile aumentare l'evasione? L'evasione, questo storicamente lo sanno tutti gli studenti di economia, che dal momento che arrivano i tassi sui 45%, l'unico problema che ha ogni imprenditore è di come evadere, perché ovviamente non riesce a pagare le tasse. Non scordiamo che l'IVA dal 18 nei ultimi anni ha dato al 23% e ovviamente non è possibile a un imprenditore dentro una crisi economica di poter pagare questi tassi che ci sono. Ma all'uscita dall'euro, lei ci crede? È un'ipotesi realistica? Si potrebbe davvero tornare alla dracma? La mia opinione è che l'uscita dall'euro non è possibile. Non è possibile perché penso che il costo che avrà la comunità europea è molto maggiore rispetto ai 130 miliardi di prestito in Grecia. Penso siamo dentro un'Europa, penso che tutti i paesi, tutti i popoli possono cambiare questa Europa, e allora non è possibile di lasciarsi la Grecia da sola o la Spagna da sola o il Portogallo o l'Italia. Sono paesi che devono essere alleati, sono paesi che possono cambiare complessivamente l'Europa, specialmente a favore della produzione e a favore dei popoli che abitano, e non a favore dei mercati e delle banche. E ora parliamo del costo della benzina, perché nonostante le oscillazioni del prezzo del greggio internazionale, in Italia il costo della benzina è sceso però di pochissimo, di 1-2 centesimi a seconda delle compagnie. Oggi il governo ha sentito le compagnie petrolifere chiedendo al più presto un ribasso di 4-5 centesimi almeno del costo dei carburanti. La nostra Anna Marino ha sentito dopo l'incontro il presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita. Sentiamo. Negli ultimi 4-5 giorni ci sono stati 4 ribassi, anzi il quinto è di oggi, e che quindi sono diminuiti di 5-6 centesimi la benzina, il gasolio è in discesa da parecchio tempo, quindi è emerso comunque un problema che è sempre il solito, ossia che la rete italiana strutturalmente è una rete molto pesante, ha 24.000 impianti, in Francia ce ne sono 14.000, in Inghilterra 9.000, e quindi questo comporta due cose, un fatto negativo perché c'è questa differenza di 3-4 centesimi nei confronti dell'Europa, però anche un elemento positivo per una parte almeno dell'utenza italiana, perché in Italia ci sono migliaia di impianti che fanno prezzi che sono competitivi rispetto all'Europa. E ora vogliamo invece parlarvi del rapporto di Save the Children sullo stato di salute delle madri nel mondo. La salute delle donne mamma è ancora troppo diversa tra il nord e il sud del mondo, mentre l'Italia scende passi, posizioni nella classifica, passando dal 17° al 21° posto in classifica, come spiega Valerio Neri di Save the Children al microfono di Francesco Riccardi. La situazione delle madri nel mondo è purtroppo molto molto contrastato. Grosso modo questo è il quadro che viene. Un mondo ricco dove la donna però, come dire, non è ancora al massimo delle proprie capacità per poca penetrazione nel mondo che conta, quello delle aziende, delle industrie, consigli di amministrazione, la scuola, le università, la politica. Il sud del mondo, donne che non hanno ancora assicurata la loro possibilità di sopravvivere spesso al parto o che comunque sopravvivano spesso alla nascita i loro bambini. Sappiamo che c'è un rapporto assolutamente diretto tra la competenza della madre, no? In termini anche di capacità di studio, di essere studiata, leggere, scrivere, eccetera, e la possibilità di vita del figlio. L'Italia si pone al 21° posto della nostra classifica, quindi non stiamo molto bene. Incide moltissimo la componente educativa, ma incide per esempio la componente femminile nel mondo politico. Un altro dato molto forte che incide è la contraccezione, cioè noi valutiamo che sia molto importante per la salute sociale della donna la sua libertà di avere figli quando si sente pronta ad avere figli. Ed è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo lo speciale Giro d'Italia da Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia, l'augurio di una buona giornata.